Siamo in collegamento con Laura che ci racconta della nuova apparizione di San Pregario a Roma, questa volta nel Pantheon del consumismo. San Pregario è nuovamente apparso dopo il 6 novembre, data in cui a Roma aveva fatto la sua ultima apparizione, è apparso qui in Via del Corso davanti a Ricordi, uno delle più grandi major musicali che appunto vendono CD, hanno il diritto praticamente delle maggiori case discografiche a prezzi assolutamente inaccessibili. San Pregario sta distribuendo copie di alcuni degli ultimi CD appena usciti, fra i quali quello dell'O2 che per un CD di 9 canzoni viene venduto al modico prezzo di 20 euro. San Pregario appunto è apparso e sta distribuendo a tutte le persone che passano e che vorrebbero accedere dentro la Ricordi questi CD. In più anche la Santa Copia sta facendo il suo ruolo oggi, riproducendo appunto e diffondendo due film che sono tuttora nelle catene diciamo cinematografiche attuali, che uno di questi è La Maleducazione e l'altro è una sorpresa che scopriranno man mano chi riuscirà ad avere uno di questi CD della Santa Copia. Quali sono le reazioni a questi doni inaspettati? Le reazioni a questi doni sono tutte molto positive, tutti che riaffermano appunto il diritto ad avere e a diffondere, a loro volta vorrebbero appunto riprodurre e continuare a diffondere queste, cioè anche questa stessa pratica. Vengono richiamate appunto da molte persone l'immaginario che è stato creato il 6 e che appunto, al contrario di come i media, anche la stessa sinistra istituzionale voleva rappresentare come un'azione violenta e di una banda di vandali che vanno a rubare dentro ai supermercati e nelle librerie, in realtà c'è una grande riscontro da parte delle persone che continuano diciamo a dare solidarietà e ad appoggiare ciò che è stato fatto anche lo stesso 6. Oggi ricordiamo che è la giornata del non acquisto a livello mondiale, appunto San Pregario ha voluto attraversare questa giornata in questa forma. Adesso da Via del Corso, appunto il cuore del centro, nel centro cittadino, del commercio e appunto di tutto quello shopping che i precari non sono e non saranno mai in grado di affrontare proprio in vista delle vacanze natalizie, continuerà la sua, diciamo, il suo movimento e arriverà fino arriverà davanti ad altre sedi, questi grandi centri e catene commerciali che si trovano appunto qui proprio nel cuore. Giornata del non acquisto appunto che vede uno scarsissimo numero di persone che si trovano qui su Via del Corso, e questo è sintomo della giornata del non acquisto, proprio perché penso che molte persone non hanno nemmeno la conoscenza di ciò, ma appunto proprio perché man mano sempre più gente si riconosce in questa purtroppo situazione di precarietà totale e non avrà mai la possibilità di circolare per queste strade.